Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È partito il nostro elicottero per soccorrere una persona sui campi da sci e poi niente, siamo stati attivati da Rieti. Un segnale quando precipita un aereo, se c'è un segnale, parte un segnale automatico di crash. Erano 5 persone dell'equipaggio e più la persona che avevano soccorso. Col collega rianimatore siamo stati a Rigopiano, siamo tornati ieri sera. Da Rigopiano? Aveva operato a Rigopiano? Sì, lui è stato 2 giorni, abbiamo dormito insieme. È un medico che parla, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, perché purtroppo c'è stata una nuova sciagura in Abruzzo, veramente un Abruzzo estremamente tormentato da qualche tempo a questa parte. Parla di questo elicottero del 118 del soccorso che oggi era andato a recuperare uno sciatore sulle montagne nell'Aquilano che si era ferito, e poi probabilmente la nebbia, probabilmente raffiche di neve, insomma, poi si cercherà di capire, è stata aperta un'inchiesta, è caduto oppure ha impattato contro la montagna, insomma sono morte tutte le 6 persone a bordo, compreso lo sciatore che era stato soccorso. Parleremo di questo, torneremo anche sul triste bollettino di Rigopiano, a capire come procedono le ricerche e i soccorsi. Per adesso si parla di 17 vittime e poi ci occuperemo anche di molte altre cose, per esempio questo avviso di garanzia che è arrivato alla sindaca Raggi, era già nell'aria, e questa cosa non è una notizia che sorprende, però oltre a lei è indagato anche Raffaele Marra per la nomina del fratello Renato, e lo stesso per quanto riguarda lei, che è accusata di abuso d'ufficio e falso. Ci occuperemo insomma di un sacco di cose, quindi non perdete un solo minuto di Effetto Notte per essere costantemente aggiornati a fine giornata, e per non dire un giorno io non lo sapevo, perché se seguite Effetto Notte potete conoscere tutte le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo. Per i vostri interventi sempre 2 canali privilegiati, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666. Allora, prima di approfondire i vari temi, come sempre vi racconto in sintesi la giornata. Roma, Virginia Raggi indagata per la nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele, ex capo del personale del comune, poi arrestato e a sua volta adesso indagato. La sindaca scrive su Facebook: ricevuto invito a comparire, io sereno ho avvisato Grillo. Nuova tragedia in Abruzzo, cade un elicottero del 118 che era andato in soccorso di uno sciatore ferito, 6 le vittime comprese l'uomo soccorso. La sciagura dell'hotel Rigopiano, salgono a 17 i corpi senza vita recuperati. Tra personale e ospiti, le persone presenti nell'albergo erano 40. Proseguono le ricerche dei dispersi, oggi ci sono stati i primi funerali. Brexit, la Corte Suprema britannica respinge il ricorso del governo May e impone un voto parlamentare per avviare il divorzio dall'Europa. Rispetteremo la sentenza, ma la Brexit non si ferma, dice il ministro Davis. Stati Uniti, Trump riceve i vertici delle case automobilistiche, rilanceremo il business, l'ambientalismo è fuori controllo, dice il presidente americano. Italicum, la decisione della consulta sulla legge elettorale slitta a domani. Il delitto di Garlasco, la Corte d'Appello di Brescia respinge l'istanza di revisione del processo sull'omicidio di Chiara Poggi, per il quale l'ex fidanzato Alberto Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni. La decisione della Corte europea, no al riconoscimento dei figli senza legame biologico. La sentenza di Strasburgo limita la pratica dell'utero in affitto. Cinema, nomination agli Oscar per Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, entra nella cinquina dei migliori film documentario. Sport, nello sci, impresa delle azzurre Brignone e Bassino in Coppa del Mondo, e per il calcio torna in campo la Coppa Italia con Napoli-Fiorentina. Partiamo quindi dalla notizia arrivata in serata che riguarda la Giunta di Roma. La sindaca Virginia Raggi risulta indagata per abuso d'ufficio e falso in atto pubblico nell'inchiesta relativa alla nomina a capo del Dipartimento Turismo del Campidoglio di Renato Marra, fratello di Raffaele, ex capo del personale del comune, poi arrestato. La nomina successivamente è stata revocata. La sindaca scrive su Facebook: ricevuto invito a comparire, io serena ho avvisato Grillo. E poco fa poi si è appreso che nella stessa inchiesta è indagato lo stesso Raffaele Marra, in concorso sempre per abuso d'ufficio nell'inchiesta appunto sulla nomina del fratello Renato. Raggi, si legge adesso, sarà interrogata il 30 gennaio e poi più tardi ne torneremo a parlare nel corso di Effetto Notte. E siamo al martoriato Abruzzo, dove oggi c'è stata una nuova tragedia. Un elicottero del 118 è caduto nell'Aquilano dopo aver prestato soccorso a uno sciatore romano che si era infortunato a Campo Felice. 6 le vittime, un medico, un infermiere, il pilota, un tecnico e un operatore di soccorso alpino e lo stesso sciatore che era stato recuperato. due operatori del soccorso alpino nazionale morti nell'incidente, come avete sentito di quello che diceva il medico all'inizio, avevano partecipato alle operazioni di soccorso all'hotel Rigopiano. Nella zona c'era nebbia fitta, raffiche di neve, i resti del velivolo sono stati trovati a Monte Cefalone. Un maestro di sci ha raccontato che l'elicottero volava basso, poi lo schianto, forse l'impatto contro la montagna. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha aperto un'inchiesta, così come la magistratura. E poi, sempre per restare in Abruzzo, la sciagura dell'hotel Rigopiano: salgono a 17 i corpi senza vita recuperati. Tra personale e ospiti, le persone presenti nell'albergo erano 40, si apprende. Proseguono le ricerche dei dispersi. Oggi, tra l'altro, ci sono stati i primi funerali a Farindola e Penne. In mattinata, intanto, sono stati ascoltati per quasi 5 ore dai carabinieri due fidanzati superstiti di Giulianova. Dall'inchiesta emerge che la mail delle 13.57 del 18 gennaio, spedita dal direttore dell'hotel, non fu vista perché gli uffici regionali erano stati evacuati per il terremoto. E poi, nel corso di Effetto Notte, torneremo sulla vicenda del hotel Rigopiano e sull'elicottero caduto. Tra l'altro, è aggiornamento di poco fa, nella sentenza di assoluzione degli imputati nel processo per corruzione dell'hotel Rigopiano, depositata il 7 dicembre dell'anno scorso in merito ai presunti abusi su terreni demaniali a uso civico pastorale, si confermano gli abusi sanati successivamente da una delibera del comune che diventò oggetto di accusa della procura. La sentenza si riferisce all'occupazione abusiva fra il maggio e il settembre 2008. Poi vediamo se capiamo qualcosa di più tra poco. Siamo adesso alla politica italiana. Slitta domani in tarda mattinata la decisione della Corte Costituzionale sull'Italicum. Lo ha comunicato il segretario generale della Corte, Carlo Visconti. La decisione sull'Italicum arriverà domani alle 13, interventi troppo lunghi che portano a uno slittamento della sentenza della Consulta. In una sala affollatissima la seduta della Corte Costituzionale si è aperta per valutare la legittimità del ballottaggio, del premio di maggioranza, dei capi lista bloccati e delle multicandidature con l'opzione del candidato di scegliere in quale collegio essere eletto. I rilievi sono giunti dalle ordinanze di 5 tribunali. L'udienza pubblica si è conclusa con l'avvocato generale dello Stato Massimo Massella Ducciteri, per il quale il ballottaggio non è vietato dalla Costituzione. Inammissibili tutti gli interventi del Codacons perché tardivi. Al termine i giudici si sono chiusi in camera di consiglio. La Corte non lascerà vuoti normativi, si potrà quindi andare al voto, ma è probabile un intervento del Parlamento per armonizzare i due sistemi di Camera e Senato, dove è attualmente in vigore il Consultellum, come chiede il capo dello Stato Sergio Mattarella. Contrari a questa ipotesi e favorevoli al voto subito, Lega e Movimento 5 Stelle. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ci spostiamo adesso all'estero, sulle notizie dall'estero. In Gran Bretagna, prima di tutto, oggi è stata un'importante sentenza sulla Brexit che non ferma il processo di uscita di Londra dall'Unione Europea, ma rende l'iter un po' più complesso. La Brexit deve passare dal Parlamento. Lo ha deciso con 8 sì e 3 no la Corte Suprema di Londra, stabilendo la necessità di un voto della Camera dei Comuni e della Camera dei Lord per dare formalmente inizio all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Una procedura prevista dall'articolo 50 del Trattato di Lisbona sulla secessione degli Stati membri. Il verdetto conferma quello di primo grado dell'Alta Corte e dà torto alla premier britannica May, che si è detta molto delusa, il cui governo aveva presentato ricorso invocando il diritto ad attivare l'articolo 50 d'autorità nel rispetto della volontà popolare espressa nel referendum del 23 giugno. La previsione generale è che nessun partito si opporrà all'uscita dalla UE per non apparire contrario alla volontà popolare. Tuttavia, il leader dell'opposizione, il laburista Jeremy Corbyn, ha dichiarato che il suo partito potrebbe proporre emendamenti alla legge prima di approvarla. I deputati, la maggior parte dei quali sono contrari a Brexit, potrebbero poi rinviare l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea proponendo emendamenti e usando tattiche dilatorie. Dal canto suo, la Premier May, che sperava di poter invocare l'articolo 50 entro fine marzo, ha fatto sapere che intende rispettare la tabella di marcia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dalla Gran Bretagna alla Germania, in vista delle elezioni, il vice cancelliere tedesco Sigmar Gabriel ha detto al settimanale Stern, secondo le anticipazioni pubblicate online: se ora mi presento fallisco io e con me la SPD, il Partito Socialdemocratico. Martin Schulz, dice Gabriel, ha più chance alle elezioni. Gabriel ha dunque rinunciato alla presidenza del Partito Socialdemocratico e alla candidatura contro la cancelliera, segnalando Schulz come suo successore. ore. E poi gli Stati Uniti, dove Trump ha incontrato alla Casa Bianca i big dell'industria automobilistica, tra cui il numero uno di Fiat Chrysler Sergio Marchionne. Siamo di fronte a un ambientalismo fuori controllo, ha detto Trump. Renderemo più facile fare business e ha assicurato un taglio delle tasse e della regolamentazione. Quindi ha ribadito che agli Stati Uniti serve una forte spinta per costruire fabbriche nel paese. Intanto, da indiscrezioni si apprende che Trump intende mantenere James Comey a capo dell'FBI e anche che è convinto Trump che abbiano votato nelle elezioni presidenziali e per la Hillary Clinton milioni di persone, di clandestini, insomma, di persone che hanno votato illegalmente alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Di questo poi parleremo collegandoci direttamente con gli Stati Uniti. Poi invece, spostandoci su altri temi, sul fronte borsistico, seconda giornata di consistenti acquisti in Piazza Affari su Generali, che ha chiuso in crescita dell'8,21%. Intesa per ora non viene lo scoperto su Generali, ma il mercato crede nei piani della prima banca italiana sulla terza compagnia assicurativa europea e così Leone ha archiviato una seconda seduta con il botto a Piazza Affari, un più 8% che ha riportato il titolo sopra i 15 euro, una soglia che non si vedeva da un anno. E pensare che per ora di ufficiale c'è solo la mossa difensiva di Generali, che ha preso in prestito il 3% di Intesa per prevenirne un'eventuale scalata. Il progetto sarebbe allo studio da qualche settimana, ma finora nel Consiglio della Banca non se ne è parlato e neanche se ne parlerà venerdì nella prossima riunione in programma, come ha detto il presidente Grospietro. Qualcosa di vero però ci deve essere e così anche la Consob ha convocato per chiarimenti i vertici di Generali, Intesa, ma anche di Unicredit, che è primo socio di Mediobanca, a sua volta prima azionista a Trieste e quindi teoricamente in partita, forse anche più del previsto. Marco Ferrando, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso leggo un dispaccio di agenzia dall'ANSA in riferimento alle indiscrezioni per un interesse verso le Generali. Intesa San Paolo conferma che possibili combinazioni industriali con il Leone di Trieste sono oggetto di valutazione da parte del management. Poi, insomma, capiremo nei prossimi giorni come procederà. Ma adesso la cronaca col delitto di Garlasco. Non ci sarà un nuovo processo per la morte di Chiara Poggi. La Corte d'Appello di Brescia ha respinto infatti l'istanza di revisione del processo su un omicidio chiesta dai legali dell'ex fidanzato Alberto Stasi, che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni. La richiesta si basava su indagini difensive che avrebbero accertato la presenza del DNA di un amico del fratello della vittima sotto le unghie di Chiara. E dopo il femminicidio di ieri a Biella, oggi è stato arrestato a Brindisi dai carabinieri e posto domiciliare con l'accusa di tentato omicidio Rocco Bellanova, di 79 anni, l'uomo che al culmine di una lite per gelosia ha sparato al volto della moglie di 78 anni. La donna è ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri e vigili urbani chiamati dai vicini che avevano sentito l'esplosione del colpo. L'uomo era ancora col fucile in mano e la moglie era ancora a terra davanti a lui. E adesso parliamo della decisione della Corte europea sull'utero in affitto. È legittimo sottrarre un bambino concepito con maternità surrogata alla coppia che lo aveva commissionato ma non aveva alcun legame biologico con lui. Con una sentenza non più appellabile che ha in sostanza ribaltato il primo grado, la Corte europea dei diritti umani ha dato ragione allo Stato italiano e torto alla coppia della provincia di Campobasso che si era loro rivolta nel 2012 dopo che il bimbo era stato loro tolto e dato in adozione. La coppia faceva appello alla Articolo 8 della Carta dei diritti dell'uomo, quello relativo al rispetto per la vita privata e familiare. Per i giudici di Strasburgo, però, quando non c'è, come in questo caso, legame biologico e considerando anche la breve durata della relazione con il bimbo, un legame di tipo familiare non esisteva. Anzi, secondo i giudici, qualora ai due fosse stato riconosciuto, questo avrebbe violato numerose normative, a partire da quella che regola le adozioni. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24. E siamo al cinema. Fuoco a mare di Gianfranco Rosi ha avuto la nomination agli Oscar, entrando quindi nella cinquina dei miglior film documentario. Poi più tardi ce ne occuperemo, mentre adesso ci occupiamo di sport con il nostro Dario Ricci. C'è l'impresa delle azzurre dello sci prima di tutto, è vero? Eh sì, direi proprio di sì, Roberta, hai detto bene, perché di impresa si tratta. Plan de Corones, la Coppa arriva in Italia, le azzurre protagoniste con la vittoria di Federica Brignone nel gigante e il terzo posto di Marta Bassino, davvero splendida prestazione in un'annata fantastica per il nostro sci, perché pensa, finora 22 podi, di cui 3 vittorie in Coppa del Mondo, e fra qualche settimana c'è il mondiale a St. Moritz, chissà, incrociamo le dita e non gli sci, perché l'esito sarebbe disastroso. Già, mentre per il calcio stanno incrociando gambe o va tutto bene? No, incrociano le gambe Napoli e Fiorentina proprio nel segno dell'X, perché finora siamo al 28esimo, risultato ancora sullo 0-0, ma partita molto divertente. In almeno 3 occasioni Reina, il portiere del Napoli, ha dovuto sventare gli attacchi dei Viola con Bernardeschi, Chiesa e Astori, ma non è da meno il Napoli che in un paio di occasioni con Pavoletti, l'attaccante appena arrivato dal Genoa nel mercato invernale, è andata davvero vicino al vantaggio. Quindi partita davvero divertente, manca solo il gol, ma siamo appena al 28esimo, ancora 0-0. Buon divertimento allora Dario Ricci, ci sentiamo più tardi per gli aggiornamenti. Intanto, prima di aggiornare invece adesso chi sta viaggiando e di ritrovarci tra pochissimo con il primo argomento da approfondire, i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Ne leggo 2 sulla Raggi di opposto punto di vista. Dice Gianni da Bologna: adesso, cara Raggi, ti devi dimettere se sei seria. Un altro messaggio dice: la magistratura italiana mi ricorda sempre più quella turca, la Raggi continui a lavorare in trincea, sarà così per 5 anni. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci, Roberto Giordano sempre con voi. Le notizie, le più importanti, le avete sentite sempre nel riassunto di inizio, non perdete mai, sempre puntuali alle 21, però tra poco vi ricordo i titoli principali se non avete acceso puntualmente. E intanto, anche prima di approfondire i temi, uno sguardo ai vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio, oppure il numero 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS. Vedo molti messaggi già sulla vicenda Raggi, sul fatto che appunto è stato invitata a comparire. Simone scrive: non a caso Grillo le ha preparato la strada, chi è indagato non deve più dimettersi, 2 pesi e 2 misure, comunque fa bene a rimanere serena, facesse il sindaco e mantenesse qualche promessa, dice Simone. Mentre Michele scrive: l'ho scritto 5 minuti dopo la sua elezione, faranno di tutto per impedirle di lavorare e le metteranno i bastoni tra le ruote, la casta non molla l'osso mai, dice Michele. Vedete, naturalmente opposti schieramenti, tra poco ne parleremo. Vi ricordo però appunto quali sono i fatti principali della giornata. Elicottero del 118 cade in Abruzzo per la nebbia, 6 morti nello schianto dopo il soccorso a uno sciatore che è morto a sua volta. 2 dei soccorritori venivano dalle operazioni di Rigopiano. E poi, a proposito dell'hotel di Rigopiano, un'altra vittima recuperata, la 17esima, è una donna, mancano all'appello in 12. Oggi sono stati i primi funerali a Farindola. Raggi convocata dai PM di Roma per la nomina di Renato Marra. La sindaca dice: ho informato Grillo, sono fiduciosa nella magistratura. E poi, per quanto riguarda l'Italicum, oggi doveva prendere la sua decisione la Corte Costituzionale, ma la decisione slitta a domani. E poi i giudici frenano Theresa May, la prima ministra britannica. Il Parlamento voti sulla Brexit, quindi la Corte Costituzionale chiede che il Parlamento voti per avviare il divorzio dall'Europa. E poi Trump, il presidente americano, che oggi ha ricevuto i big dell'auto e ha detto: l'ambientalismo è fuori controllo, bisogna rilanciare il business. E poi l'Oscar, per quanto riguarda gli Oscar, la nomination per Fuoco a Mare di Gianfranco Rosi, e lui dice: l'ho dedicato a Lampedusa. Quindi parliamo di questa notizia arrivata 2 ore fa, anche se era nell'aria da tempo. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, appunto, risulta indagata nell'inchiesta relativa alla nomina a capo di Dipartimento Turismo del Campidoglio di Renato Marra, che è fratello di Raffaele Marra, ex braccio destro di Virginia Raggi, ex capo del personale del comune, poi arrestato. La nomina poi successivamente del fratello è stata revocata, però sull'episodio la Procura di Roma aveva aperto un fascicolo. Lei ha preso la notizia, ha scritto oggi sul suo Facebook appunto che aveva ricevuto questo avviso di garanzia, però dice: ho informato Grillo, ho adempiuto al dovere di informazione previsto dal codice di comportamento del Movimento 5 Stelle, sono molto serena, ho completa fiducia nella magistratura, come sempre siamo pronti a dare ogni chiarimento. È indagata per abuso d'ufficio e falso in atto pubblico. Ne parliamo con Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Cara Manuela, buonasera. Buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori. E dicevamo appunto, era nell'aria, no? Diciamo è l'ultimo capitolo di questa tormentata giunta romana per il momento. Manuela. Era nell'aria, si attendeva proprio per gennaio e si attendeva da quando l'ANAC, l'autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone, aveva trasmesso gli atti alla Procura di Roma proprio ipotizzando un abuso d'ufficio sia da parte di Raffaele Marra, che è appunto stato indagato, che è indagato anche lui, esatto, a sua volta, e sia per quanto riguarda la sindaca. La novità è il reato, diciamo, l'imputazione di reato di falso, proprio perché avrebbe detto alla responsabile anticorruzione del Campidoglio che la nomina di Renato Marra era stata decisa in totale autonomia dalla stessa sindaca, cosa che non risulta stando almeno ai contenuti delle chat e degli sms che sono stati acquisiti dalla Procura di Roma. Carlo da Latina scrive: lontanissimo anni luce del Movimento 5 Stelle, ma contro la Raggi, dice, mi pare si stia davvero esagerando, una volta è un caso, la seconda non è un caso, ma la terza è una congiura. E molti anche si stanno scagliando, vedo messaggi contro i giornalisti, invece di fare pettegolezzi parlate di quelli che invece sono inquisiti o condannati in Parlamento, ma comunque questa è una notizia, è uscita due ore fa. Si parla di tutto, al di là, diciamo, delle polemiche. Io vorrei precisare una cosa anche a proposito di quello che scriveva prima un ascoltatore. In realtà il regolamento, il nuovo regolamento che era stato poi prodotto dal Movimento 5 Stelle, in realtà non salva Raggi, perché si limita a ratificare, a mettere nero su bianco quello che il Movimento già faceva, e cioè valutare caso per caso, in caso di avviso di garanzia a un amministratore, il da farsi. E che fosse così lo dimostrano i casi Nogarin e Pizzarotti. Pizzarotti è stato sospeso dal Movimento, Nogarin non era stato sospeso pur destinatario di un avviso di garanzia. Perché sono stati fatti dei distinguo, quindi c'era già prima questa cosa, non l'ha fatta Grillo per salvare la sindaca. La regola del Movimento è sempre stata l'obbligo di dimettersi in caso di condanna di primo grado. Mentre in caso di avviso di garanzia si lasciava, diciamo, una discrezionalità che non era scritta ma era nella prassi. Adesso è così. Anche nel caso di Virginia Raggi il regolamento prevede che non ci sia nessun automatismo, cioè la sindaca non è obbligata a fare alcunché, men che meno a dimettersi, certo, o ad autosospendersi dal Movimento, ma il garante, quindi Beppe Grillo e il comitato, il collegio dei probibiri del Movimento, possono valutare durante tutta la fase anche delle indagini eventuali provvedimenti, eventuali decisioni. Quindi quello che adesso faranno i 5 Stelle sarà monitorare il percorso delle indagini e valutare passo dopo passo il da farsi, anche alla luce di quello che emergerà. Vedo anche Francesco dice: nulla da eccepire, un indagato non è gioco forza un criminale, io la penso da sempre, sono lieto che da una ventina di giorni lo pensi disinteressatamente, of course, dice anche il Movimento 5 Stelle, ma Manuela Perrone ci spiegava che in realtà lo pensa dall'inizio. Poi Enzo dice: non mi sono mai piaciuti i super onesti, però il popolo era ed è con loro, ma se questo è il risultato mi sa che corruzione e malaffare continueranno alla grande. Poi Luca scrive: terremoto, elicottero, soccorso, schiantato, morti, prima la Raggi, ma che, insomma, tutti gli ascoltatori vorrebbero che fosse una notizia prima o l'altra. Abbiamo dedicato speciali su quello che è successo a Rigopiano, abbiamo parlato anche tutto il giorno dell'elicottero, torneremo a parlarne tra pochissimo, evidentemente qualcuno dà priorità a seconda dei giorni a una o l'altra cosa, ma hanno, diciamo, dignità diversa, e oggi, diciamo, l'ultima notizia che è arrivata era questa della Raggi. Manuela Perrone, io ti ringrazio e ti auguro buon lavoro. Grazie a voi. Ciao Manuela. Ciao. Ora invece parliamo dell'incontro di Trump, ci trasferiamo negli Stati Uniti, sempre se l'ascoltatore approva, e oggi con i vertici delle case automobilistiche c'è stato un incontro appunto del presidente americano, i big dell'industria dell'auto americana, naturalmente tra questi c'era Marchionne, amministratore delegato di Fiat Chrysler. Ha detto Trump: siamo di fronte a un ambientalismo fuori controllo, renderemo più facile fare business. E Marchionne ha detto: bene Trump, se rilancia il business negli Stati Uniti non vediamo l'ora di lavorare con lui e i membri del congresso per rafforzare l'industria manifatturiera americana. Quindi tutti contenti. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Ciao Mario. Buonasera, eccoci Roberta. Beh, direi tutti più che contenti, tutti molto felici di questo incontro, perché di fatto Trump propone un nuovo modello costi-benefici, i manager dell'auto ragionano in termini manageriali, naturalmente, certo, il loro mestiere, e quindi un'analisi costi-benefici è molto semplice. Da una parte, Trump dice: vi taglierò le tasse, vi manterrò un controllo sulle regole, regole che, come sappiamo, hanno costretto le case automobilistiche a pagare miliardi di multe, di dollari, eccetera, eccetera. Sarò più flessibile sull'ambiente, anche se sono un ambientalista, quindi insomma avrete meno costi, avrete meno tasse, vedete di fare qualcosa, anche perché se non lo fate io ho una tariffa del 35% pronta per i vostri prodotti che importate dal Messico, tutte le case americane hanno fabbriche in Messico. Mm. Ecco, e tu capisci che è un rapporto costo-benefici che cambia in qualche modo l'equazione, dunque per questo sono molto attenti. Ti dico se vuoi, se ti interessa, se interessa i nostri ascoltatori, così le reazioni dei chief executive officer, ma anche l'atmosfera, guarda, credo che ne valga la pena. Non so, Trump ha cercato di essere molto amichevole, ha detto: io non punto il dito su nessuno, non voglio mettere voi all'indice, voglio parlare con voi perché siete uno dei settori più importanti, siete le aziende più importanti del settore. Poi con ognuno è stato molto carino, non so, per esempio è stato molto gentleman con la signora Barra, si è alzato in piedi. Marion Barra, lo ricordo, è l'amministratore delegato della General Motors, Mark Fields è l'amministratore delegato della Ford, e c'era naturalmente anche Marchionne. Allora si è alzato, gli ha tenuto la sedia, ha detto: mi consenta di poterla aiutare, e a Mark Fields gli ha fatto gli auguri di buon compleanno, ha saputo che quel giorno era il suo compleanno, quindi molto cordiale, molto attento, e con Marchionne ha detto: ma insomma, dice, ma io ho saputo che lei ha preso un aereo notturno per venire da noi, spero che non sia troppo stanco, e credo che forse Trump non sa che Marchionne l'aereo notturno lo piglia forse 4 volte alla settimana. Diciamo, noi prendiamo il tram. Senti Mario, però vedevo adesso anche un'altra agenzia secondo la quale Trump crede che milioni abbiano votato illegalmente durante le elezioni presidenziali. Sì, dunque questo è un tema molto forte. Fammi finire un attimo sulla questione auto, prego, industria, sì, posti di lavoro. Cioè, Trump è super attivo, questo è il preambolo che dobbiamo avere, è stato super attivo, io non ho mai visto Obama così attivo, incontri in continuazione, sindacalisti, il suo obiettivo principale, quello con cui ha cominciato, è economia, posti di lavoro, rilancio delle industrie, rilancio del manifatturiero, e si sta dando da fare perché questo succeda, ecco, questo sicuramente è ammirevole. Quello che non è ammirevole è quello che hai detto tu. Cioè, come gli viene in mente a Donald Trump di dire l'altra sera, ieri sera, quando si è incontrato con la leadership del Congresso, dove c'erano anche i democratici, che lui ha perso il voto popolare, perché sappiamo che Hillary ha perso Clinton il voto popolare. Hillary Clinton ne ha avuti milioni in più, no, di voti 3 popolari. Milioni, Hillary Clinton ha avuto 2 milioni e 8, diciamo 3 milioni di voti in più, il 2,8% grosso modo del voto totale, quindi una percentuale piuttosto forte del voto popolare. Non era mai successo prima. E allora Trump che dice? Dice: beh, certo, dice, a me risulta che fra i 3 e i 5 milioni di criminali immigrati illegali negli Stati Uniti hanno votato per lei. Ora, ecco, è una cosa questa che fa sorridere, perché non è concepibile che io li vediamo questi immigrati illegali, sono delle persone anche piuttosto ignoranti, non è che si ingegnano per andare a votare per Hillary Clinton. Non è che li pagano, credo che fosse l'ultimo pensiero probabilmente, no? Ecco. Quindi è una cosa che non ha molta credibilità, tant'è vero che il New York Times, figurati, ha titolato questa mattina: Trump dice bugie sulla montare dei voti legali, perché non c'è stata, anzi devo dirti, tutti i riscontri ufficiali del Dipartimento degli Interni, di coloro stesso, che seguono queste cose, scusa Mario, dicono stesso, che è stata una reazione, cioè, perché ci saranno state delle illegalità, ma minime, qualche migliaio forse in tutto al massimo. Leggevo, ecco, che lo stesso questo speaker della Camera dei rappresentanti americano, il repubblicano Paul Ryan, ha preso le distanze da Donald Trump, ha detto: non ci sono prove che sia successa questa cosa. Non ci sono prove. Allora oggi c'è stato un confronto con Sean Spicer. Sean Spicer è il portavoce di Donald Trump ed è un uomo tutto d'un pezzo, molto duro, un irlandese, ama ricordarlo, quindi vuole celebrare il St. Patrick's Day molto presto, e devo dire che è stato molto bravo in una situazione difficile, ha cercato di difendere il presidente da questa cosa, ha detto ma dice il presidente crede ed è convinto di questo, non ha fatto altro che ripetere questa sua convinzione, e allora lì è stato attaccato da alcuni giornalisti, non molti, perché c'è un po' di timore, insomma bisogna tenere i buoni rapporti, no? Quindi, ma alcuni lo hanno attaccato, hanno detto ma scusami, ma allora che cosa succede? Vuoi forse dirci che farete partire un'inchiesta federale per vedere i risultati di queste brogli dei voti? Potete darci delle prove? Ci sono delle documentazioni? E lui era chiaramente imbarazzato, ma molto seccato e molto duro, e rispondeva, ho appena detto quello che dovevo dire. Il presidente è convinto di certe cose e le ha enunciate, è libero di dire quello che vuole. Senti, ecco. Invece Mario, abbiamo ancora pochi questo secondi. Questo non aiuta, ecco, possiamo sì, capirlo. È chiaro, questo rapporto ostile con i media, questo diciamo è una sua tradizione. Invece questa indiscrezione, New York Post, secondo la quale Hillary Clinton potrebbe essere candidarsi a sindaca di New York prossimamente, ti risulta proprio così? Ma guarda, è una cosa questa che circola o gira, fra virgolette, ormai da qualche settimana. Staremo a vedere. Voglio dire, tutto è possibile, ma io personalmente non ci credo. Ecco, poi abbiamo sbagliato mille cose in politica, ma non vedo, soprattutto di questi tempi, ma non vedo come Hillary, dopo essere stato segretario di Stato, candidato per la presidenza degli Stati Uniti, ruoli altissimi, si accontenti, voglia dice poi di tornare essere a fare il sindaco di New York. Sicuramente potrebbe vincere, ma c'è già un sindaco democratico. E che cosa fa? Si De mette Blasio nelle primarie contro di lui. Dici poco probabile. Hillary, voglio dire, Hillary ormai dimostra, rappresenta quell'immagine di quella politica, lo vediamo anche da noi in Italia, che cerca di essere incrostata sulle sue leve del potere senza rendersi conto che molto è cambiato anche nell'opinione pubblica e dunque non sarebbe una cosa buona credo neanche per i democratici. Probabilmente, ha perso due volte tra l'altro, pensa, ci ha perso contro Obama, poi insomma l'errore è stato per i democratici di mandare Hillary Clinton, adesso che la mandino a fare sindaco di New York o che lei si candidi. Ti sembra ripeto, tutto è possibile, però staremo a vedere. Chiaro. Grazie Mario Platero da New York. Grazie a voi. Ciao Mario. Ci prendiamo adesso questa piccola pausa. Intanto vedevo altri messaggi vostri su vari argomenti. E dice per esempio Antonio, nulla da eccepire sulla lungimiranza di Grillo e Casaleggio, i quali hanno elaborato un codice etico con una parvenza di garantismo giusto in tempo per salvare Virginia. Ma ci diceva Manuela Perrone che non è così. Poi a volte ci accusano di essere antigrillini. Un altro ascoltatore dice ottima intervista con la portavoce di Grillini, che sarebbe la giornalista secondo questo ascoltatore del Sole 24 Ore, Manuela, dice Roberta sarai il tappetino scendiletto dei 5 Stelle, quindi evidentemente siamo imparziali visto che una volta ci accusano di una cosa e l'altra della cosa opposta. Ci risentiamo tra poco, va? Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi Roberta Giordano. Adesso, dopo aver riassunto le notizie, aver parlato di due argomenti in particolare, dell'invito a comparire per la sindaca Raggi, che diciamo era un po' già scontato nelle settimane scorse, oggi è arrivata la notizia, lei lo ha comunicato su Facebook e ha detto che ha avvisato di questo anche Grillo, molti vostri messaggi in merito, e poi abbiamo parlato anche di Trump che oggi negli Stati Uniti ha incontrato i vertici delle case automobilistiche dicendo c'è troppo ambientalismo, è incontrollato, bisogna rilanciare un po' il business. Adesso invece torniamo a occuparci del martoriato Abruzzo. Mentre sulla Raggi ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. C'è per esempio Fabio da Roma che dice alla signora Raggi nessuno impedisce di lavorare, è totalmente incapace di farlo. Sono un romano, pensavo di aver toccato il fondo col predecessore ma ora siamo al massimo dei minimi. Mentre Anselmo scrive se usassero tutte queste energie per i problemi veri e non per ostacolare chi ha voglia di migliorare le cose solo perché puzza di onestà avremmo un paese fantastico, non un paese di pressapochisti, così la vede Anselmo. Allora tra poco torniamo appunto sugli approfondimenti, ma vi ricordo prima di tutto, se non avete acceso puntualmente alle 21, i fatti principali. Roma, Virginia Raggi indagata per la nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele, ex capo del personale del comune, poi arrestato e a sua volta adesso indagato. La sindaca scrive su Facebook, ricevuto l'invito a comparire, sono sereno, ha avvisato Grillo. La nuova tragedia in Abruzzo: cade un elicottero del 118 che era andato in soccorso di uno sciatore ferito. 6 le vittime, compreso l'uomo soccorso. Ne parleremo a breve, così come torneremo sull'hotel Rigopiano. Salgono a 17 i corpi senza vita recuperati. Brexit: la Corte Suprema Britannica respinge il ricorso del governo May e impone un voto parlamentare per avviare il divorzio dall'Europa. Stati Uniti: Trump riceve i vertici delle case automobilistiche, rilanceremo il business, l'ambientalismo è fuori controllo, dice il presidente americano. Sull'Italicum: la decisione della consulta slitta a domani. E poi il delitto di Garlasco: la Corte d'Appello di Brescia respinge l'istanza di revisione del processo sull'omicidio di Chiara Poggi, per il quale l'ex fidanzato Alberto Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni. E poi per il cinema: nomination agli Oscar per Fuoco a Mare di Gianfranco Rosi, entra nella cinquina dei miglior film documentario. È partito il nostro elicottero per soccorrere una persona sui campi da sci e poi niente, siamo stati attivati da Rieti, un segnale, quando precipita un aereo se c'è un segnale, parte un segnale automatico di crash. Erano 5 persone dell'equipaggio e più la persona che avevano soccorso. Col collega rianimatore siamo stati a Rigopiano, siamo tornati ieri sera. Da Rigopiano? Aveva operato a Rigopiano? Sì, lui è stato 2 giorni, dove abbiamo dormito insieme. L'avete sentito all'inizio, questo è un medico che racconta di una nuova sciagura che ha colpito l'Abruzzo, questo elicottero del 118 che era andato in soccorso nell'Aquilano di uno sciatore che si era ferito e poi probabilmente per la nebbia, per le raffiche di neve, forse si è schiantato contro la montagna, 6 le vittime e tra cui anche questo sciatore. Poi naturalmente ritorniamo anche sul triste bollettino dei corpi ritrovati nell'hotel Rigopiano. Ne parliamo con Primo Di Nicola, direttore del Centro Quotidiano Online Abruzzese. Bentornato, Primo. Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori. Insomma, davvero un Abruzzo estremamente tormentato da diverso tempo a questa parte. Tormentato dalle disgrazie, dagli eventi, e tormentato anche dalle difficoltà che da questi eventi sono scaturite, a cominciare dalle difficoltà di servizi messi in moto dal maltempo. Primo, senti, sei per caso un auricolare, qualcosa? Sì, ecco. Mi sentite meglio adesso? Sì, sì, ti sentiamo decisamente meglio, decisamente okay. Meglio. Quindi, 6 le vittime, erano, questo elicottero era decollato e tra l'altro la cosa particolare, come diceva il medico, è che 2 dei soccorritori a bordo erano stati soccorritori anche per l'hotel di Rigopiano, quindi giornate di grandissima emergenza, di dolore, insomma di perdite e anche di grande eroismo, di sacrificio, di abnegazione, no? Come questi soccorritori che avevano passato notti su Rigopiano e poi erano corsi per salvare questo sciatore. Assolutamente, assolutamente, le coincidenze terribili, l'eroismo e la morte, ma c'è anche un'altra coincidenza, se permettete. Sì. Sapete, si sta parlando molto circa l'opportunità di far decollare quell'elicottero per una, chiamiamola così, gamba rotta tra virgolette. Cioè, tra l'altro c'è da verificare se quel tipo di codice per quel tipo di problema corrispondeva a quelli per i quali poi si mette in moto un elicottero, cioè i famosi codici rossi. Si dice infatti che poteva essere riportato questo sciatore infortunato, poteva essere comodamente portato giù con un'ambulanza, con delle auto. Ecco, la sorte ha voluto che sia stato mandato un elicottero e poi anche l'infortunato morto è arrivato all'ospedale dell'Aquila in ambulanza, ma morto appunto. Quindi tu dici, bisogna capire adesso, anche qui è stata aperta un'inchiesta comunque, se sono state fatte le cose opportune o meno. Certamente quando c'è una persona in difficoltà è necessario mobilitare tutti i mezzi a disposizione. Ora, alla luce dei fatti che si sono registrati, però non lo dico io, ci sono delle persone, a cominciare dai medici del 118, che sollevano questo problema circa l'opportunità di far decollare un elicottero con quelle condizioni. Per quel per quel tipo di intervento. Senti, invece, primo, sulla vicenda di Hotel Rigopiano, sono state recuperate, adesso se non sbaglio l'ultimo aggiornamento, 17 vittime. Esatto. I numeri sono un po', nel senso che all'inizio sembrava che vi fossero nell'hotel 20-25 persone tra ospiti e personale, poi si è parlato di una trentina di persone, adesso si parla di 40 persone, sì, che erano presenti, 28 ospiti, 4 bambini, tutti salvi, e 12 dipendenti. Siamo a 40, il fatto all'inizio c'era una cifra che non era esattamente 40, il fatto che poi si sia dilatata fino a questa quota lascia aperta la possibilità, come spesso capita in strutture pubbliche, in locali, che ci possano essere delle persone non registrate. Io mi auguro che non sia così, perché significherebbe a questo punto della vicenda aggiungere morti ad altri morti, quindi c'è stata una crescita legata al fatto che c'era appunto la presenza di una persona che all'inizio non era stata segnalata come presente, non era registrata. Senti, a parte la cosa insomma carina così dei due bambini, Edoardo Di Carlo 9 anni e Samuel di Michelangelo 7 anni, Edoardo Di Carlo di 9 anni sa già, è stato informato che i suoi genitori sono morti, no? Quindi immaginiamo questo bambino come può stare. L'altro spera ancora che ci siano e siano tratti vivi tra i dispersi, però la cosa carina è che il calciatore della Juventus Dybala oggi ha fatto una specie di videochiamata, no? Con loro, quindi in qualche modo ha tirato su, anche se è così per quel momento. Speriamo che serva effettivamente ai bambini, anzi sono sicuro che serva, perché altrimenti questi gesti in queste circostanze, quando vengono pubblicizzati in un momento di grande difficoltà, di dolore, io dicevo domani forse titoleremo, per quanto diciamo gli avvenimenti di oggi, appunto un dolore senza fine, a una disgrazia se ne tira un altro, ora il fatto che uno sportivo generosamente si mobiliti per dei bambini va bene, però francamente è talmente profondo, diffuso anche nelle stanze, nella mia redazione, il dolore che decentra un po', dici, dal fuoco della tragedia. Senti, per chiudere, primo, leggevo questo aggiornamento della sentenza dell'hotel sugli abusi confermati e sanati, anche se c'è stata una sentenza di assoluzione, leggo, tuttavia, scrivono i magistrati, la presenza di una zona grigia moralmente sgradevole ma penalmente irrilevante, comportamenti abituali in questo paese, di farindole immagino, di soggetti titolari di potere, i quali ritengono di utilizzare la loro posizione di primazia per assicurare vantaggi ai familiari e amici, consapevoli che il potere a loro affidato comporti di per sé tali privilegi. Comunque sappiamo che è stata aperta questa inchiesta dalla procuratrice di Pescara con diversi filoni e prosegue in questi giorni. Ma guardate, no? Qui il problema è semplice, allo stato degli atti ci sono stati dei procedimenti anche penali, sono finiti tutti con l'assoluzione, non ci sono problemi, anche perché da un punto di vista urbanistico le licenze sono parse tutte in regola. C'è invece un punto sul quale, come dire, vale la pena riflettere in Abruzzo, ma un po' in tutta Italia, e cioè che in riferimento, partendo diciamo da questa storia, andando diciamo all'origine della vicenda, probabilmente questa struttura in quel posto è sembrato, come dire, un poco, gesto poco molto abbondante. Perché in quel posto, deposito di detriti per vecchi movimenti di terra e anche valanghe, slavine, rendevano poco opportuna e poco sicura la presenza. Anche in Abruzzo, terra generosa e di montagna, ci si dimentica come spesso e volentieri la natura non sia particolarmente amica, per già cui i segni naturali, i depositi di detrito dovrebbero essere sempre interpretati come un rischio. Come Primo Di Nicola, io intanto ti ringrazio, ricordo direttore del centro, e ti auguro buon lavoro. Ciao Primo. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vi ricordo le notizie più importanti, sempre Roberto Giordano con voi, ne abbiamo appena parlato, l'elicottero del 118 caduto in Abruzzo, oggi per la nebbia, 6 morti dopo lo schianto, erano andati a soccorrere uno sciatore. è morto a sua volta, due di loro venivano dai soccorsi di Rigopiano. E poi per quanto riguarda l'hotel abruzzese, è stata recuperata la 17esima vittima, una donna, mancano l'appello in 12, oggi sono stati i primi funerali a Farindola. E poi il sindaca di Roma Raggi, convocata dai PM per la nomina di Renato Marra, lei dice: ho informato Grillo, ho fiducia nella magistratura. Siamo allo spazio europeo. Europa 24 notte. Parliamo di specie aliene. Il progetto ASAP, promosso da Ispra e Legambiente, finanziato nell'ambito dei programmi europei LIFE, si propone per informazione per salvare il nostro patrimonio di biodiversità. In Italia si contano ormai più di 3.000 specie aliene, non extraterrestri ovviamente, ma animali o vegetali di altre aree geografiche, introdotti con serie conseguenze sul nostro ecosistema. Ma quasi nessuno lo sa, ed ecco perché l'ISPRA, l'Istituto Nazionale per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e Legambiente hanno promosso il progetto ASAP, che è stato cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso LIFE, lo strumento finanziario con cui fin dal 1992 l'Unione Europea sostiene azioni e progetti per l'ambiente. ASAP è l'acronimo di Alien Species Awareness Program, cioè programma di consapevolezza, diciamo, sulle specie aliene, ma ricorda un altro acronimo, As Soon As Possible, il più presto possibile, perché bisogna agire rapidamente. Rossella Muroni, presidente di Legambiente. È fondamentale far capire agli italiani che già nel nostro paese sono presenti 3.000 specie aliene. Pensate ad esempio alle tartarughine piccole, quelle che vengono solitamente comprate dai genitori che vogliono evitare il cane o il gatto per i bambini. Ecco, noi abbiamo ormai nei nostri centri urbani i giardini e i laghetti magari artificiali invasi da questo tipo di tartarughe, o alcune piante che noi vediamo nei nostri giardini, piante ornamentali. E tutti si ricordino il caso della nutria. Nel caso della nutria poi peraltro contribuiscono a un problema che in Italia è gravissimo, che è il dissesto idrogeologico. La nutria influenza direttamente la qualità della biodiversità e l'ecosistema fluviale. Sarà un lavoro principalmente di comunicazione verso il pubblico, durerà 3 anni e sarà coordinato da Piero Genovesi dell'ISPRA. Le specie aliene e le specie invasive sono la seconda principale causa di estinzione al mondo, ma non solo, perché prendiamo l'esempio della zanzara tigre, che porta oltre 20 virus o arbovirus. Quando è arrivata in Italia ha sparso queste patologie, provocando degli impatti sanitari molto rilevanti. L'Europa ha approvato un regolamento 2 anni fa per regolamentare in maniera più efficace gli spostamenti e i rilasci di queste specie. Il progetto che l'Europa ha cofinanziato e che ISPRA coordina insieme ad altri partner, tra cui Legambiente, la Federparchi, alcune società private come la Oikos di Firenze e l'Unicity di Roma, che hanno più competenze di comunicazione, e che è cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente e da 4 parchi nazionali, vuole proprio concentrarsi sulla comunicazione, una migliore informazione sia degli enti pubblici, delle regioni, delle province autonome, sia però dei diversi settori della società che a diverso titolo hanno a che fare con l'importazione e il possesso di specie potenzialmente invasive. Pensiamo agli acquariofili, vivaistica, i cacciatori. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ringrazio l'ascoltatrice Silvia e subito chiamo in causa Marta Cagnola, che ci dà una buona notizia su fuoco a mare. Marta? Sì, una buonissima notizia, perché lo sapevamo, non ce l'aveva fatta entrare nella short list, cioè nella lista ristretta di quelli che poi avrebbero avuto la candidatura a miglior film in lingua straniera agli Oscar, ma è entrato nella cinquina dei documentari, quindi Fuoco a Mare sarà comunque agli Oscar e candidato per un Oscar molto interessante, che è quello dei documentari. Cosa ha detto Gianfranco Rosi, che in questo momento si trova a Tokyo per promuovere il film? È bellissimo portare Lampedusa a Hollywood, ovviamente in tempi trampiani, lui dice, questa candidatura ha ancora più significato. Per il resto avrà contro dei documentari che parlano soprattutto di temi come gli afroamericani e l'Africa, I Am Not Your Negro, OJ Made in America, il tredicesimo, poi insomma non è scontato che ce la faccia, ma già questo è un ottimo viatico. Per il resto, record di statuette per La La Land, il musical in questi giorni in sala, 14, insomma, domina tutti questo La La Land. Grazie Marta Cagnola, e adesso subito con il calcio. Napoli-Fiorentina sempre 0-0, ma è divertente sempre, Dario? Sì, confermo la fotografia che abbiamo fatto nel primo collegamento dopo appena un quarto d'ora. Secondo tempo che è iniziato da circa 3 minuti, siamo al 49esimo, ancora 0-0, ma partita vivace, se non vivacissima, diverse occasioni da una parte e dall'altra, e anche una traversa, quella colpita da Insigne, che al 29esimo ha calciato direttamente su punizione da posizione defilata verso la porta viola. Bravo Tatarusano a metterci le mani e a smanacciare proprio sulla traversa che ha respinto il tiro dell'attaccante napoletano. Insomma, tante occasioni, ci stiamo divertendo, siamo ancora 0-0, se segnassero ci divertiremmo anche un po' di più. Così dice Dario Ricci, smanacciando. Noi invece ci fermiamo per aggiornarci poi brevemente, come sempre, alle 22.